Elizabeth trovava che l'argomento stava facendo sempre più interessante e stava ad ascoltare tutta orecchi, ma la sua innata delicatezza le impedì di fare altre domande. Il signor Wickham cominciò a parlare di argomenti più generali, Meryton, la regione, la vita di società, e si dimostrava entusiasta di tutto quanto aveva fino allora veduto. Per la società specialmente ebbe espressioni di naturale ma squisita galanteria. È stata soprattutto la prospettiva di frequentare una società buona e seria, aggiunse, che mi ha indotto a entrare nel Shire. Sapevo che era un corpo rispettabilissimo, molto simpatico, e il mio amico Danny volle tentarmi maggiormente con la descrizione degli attuali quartieri e le grandi attenzioni e le eccellenti conoscenze che Meriton gli ha procurato. I rapporti sociali, lo confesso, mi sono necessari. Sono stato deluso dalla vita e l'animo mio non sopporta la solitudine. Bisogna per forza che abbia qualcosa da fare, che abbia della compagnia. Non era proprio la vita militare quella per la quale io mi sentivo portato. Ma le circostanze me l'hanno resa desiderabile. La mia carriera avrebbe dovuto essere quella ecclesiastica e sarei anzi già titolare di un cospicuo beneficio, se così fosse piaciuta al signore di cui stavamo appunto parlando poco fa. Davvero? Proprio. Il defunto signor Darcy mi aveva lasciato per testamento il miglior beneficio del suo patronato che si fosse reso vacante. Era il mio padrino e mi voleva un gran bene. Non loderò mai abbastanza la sua bontà. Egli si era prefisso di provvedere largamente al mio sostentamento e credeva di esserci riuscito, ma quando il beneficio si fece vacante, fu destinato ad altri. Dio mio, esclamò Elizabeth, ma come è potuto essere? Come mai non fu rispettato quel testamento? Perché lei non ha ricorso alle vie legali? Nei termini dell'ascito, v'era appunto un'irregolarità di forma che mi precludeva ogni appiglio legale. Un galantuomo non avrebbe certo posto in dubbio la volontà del defunto, ma il signor Darcy sì, o quantomeno preferì presentarla come una disposizione condizionale e asserì che io avevo impedito il verificarsi della condizione per via della mia prodigalità, della mia leggerezza. Insomma, nulla di nulla. Quel che è certo è che il beneficio si rese vacante 2 anni or sono, quando io ero appunto in età di esserne investito e che fu assegnato ad altri. E non meno certo è che io non posso davvero accusarmi di aver fatto alcunché per meritare di perderlo. Sono un uomo di temperamento sanguigno, impulsivo, e può darsi che abbia talvolta espresso le mie opinioni di lui o a lui con eccessiva franchezza. Non posso rammentarmi nulla di più grave, ma sta di fatto che siamo due esseri molto diversi l'uno dall'altro e che lui mi odia. Ma che scandalo! Meriterebbe di essere svergognato in pubblico. Verrà la volta in cui lo sarà. Ma non da me. Finché mi ricorderò di suo padre, non sarò mai capace di sfidarlo o di smascherarlo. Elizabeth gli rese merito per questi sentimenti e lo trovò più bello che mai mentre li esprimeva. Ma, ella soggiunse dopo una pausa, quale può essere stato il suo movente? Che cosa può averlo indotto a comportarsi in modo così spietato? Una profonda, deliberata avversione per me, un'avversione che non posso a meno di attribuire in parte alla gelosia. Se il defunto signor Darcy mi avesse voluto meno bene, forse suo figlio mi avrebbe sopportato più facilmente, ma l'effetto non comune che suo padre mi portava cominciò a irritarlo, credo, fin dalla fanciullezza. Non era tipo da sopportare quella specie di competizione in cui ci trovavamo, quella specie di preferenza a cui io fui così spesso fatto segno. Non avevo mai supposto che il signor Darcy potesse essere tanto cattivo. Benché non mi sia mai piaciuto, non avevo mai pensato tanto male di lui. Mi era sembrato che disprezzasse il suo prossimo in generale, ma non avevo sospettato che potesse abbassarsi a così meschine vendette, a tanta ingiustizia, a tanta mancanza di umanità. Dopo qualche minuto di riflessione, tuttavia, ella riprese. Mi ricordo di aver sentito un giorno a Netherfield vantarsi dell'implacabilità dei suoi risentimenti, del suo temperamento che non perdona. Deve avere un gran caratteraccio. Su questo punto è meglio che non mi pronunci, rispose Wickham. Mi sarebbe difficile essere giusto con lui. Elizabeth si sprofondò di nuovo nei suoi pensieri e dopo poco esclamò: Ma trattare in tal maniera il figlioccio, l'amico, il beniamino di suo padre? E avrebbe potuto aggiungere un giovane come lei, per di più, di cui il solo aspetto garantisce della sua amabilità. Ma si contentò di dire. E inoltre, quello che era stato probabilmente il suo compagno di infanzia legato a lui, mi pare che lei abbia detto da grandissima intimità. Siamo nati nella stessa parrocchia, entro lo stesso parco. Abbiamo passato insieme la più gran parte della nostra giovinezza. Abbiamo abitato la stessa casa, diviso gli stessi trastulli, oggetto entrambi delle stesse cure da parte di suo padre. Il mio babbo aveva cominciato a guadagnarsi da vivere esercitando la stessa professione alla quale suo zio, il signor Phillips, sembra render tanto credito. Ma rinunciò a ogni cosa per servire il povero signor Darcy e dedicò tutto il suo tempo alla cura della tenuta di Pemberley. Era altamente stimato dal signor Darcy, del quale godeva come intimo amico la piena fiducia. Il signor Darcy ebbe sovente a riconoscere di essere obbligatissimo alla solerte amministrazione di mio padre e quando poco prima della sua morte il signor Darcy gli promise spontaneamente di provvedere a me, sono convinto che si sentì portato a farlo non meno dal debito di gratitudine che aveva per lui che dal suo affetto per me. «Che strano!» esclamò Elizabeth. Davvero abominevole. Mi stupisce che l'attuale signor Darcy non sia stato indotto dal suo stesso orgoglio, se non da altro, ad essere giusto nei suoi confronti. Salvo che non si debba attribuire la cosa a ragioni anche peggiori, che egli cioè non abbia avuto anche l'orgoglio della sua disonestà, giacché un'azione simile io non posso, a meno di definirla una disonestà. C'è davvero di che stupire, convenne Wickham, dal momento che tutte le sue azioni in genere trovano il loro movente nel suo orgoglio, che poi è anche stato spesse volte il suo migliore amico, giacché l'ha avvicinato alla virtù più di ogni altro sentimento. Ma nessuno di noi è coerente, nella sua condotta, nei miei confronti, Darcy si è lasciato guidare da un impulso ancora più forte dell'orgoglio. Ma è mai possibile che un riprovevole orgoglio come il suo possa averlo spinto al bene? Sì. L'orgoglio lo ha spesso indotto a essere liberale, generoso, a elargire il suo denaro, a essere ospitale, ad aiutare i suoi dipendenti, a soccorrere i bisognosi. L'orgoglio di famiglia e l'orgoglio filiale, che è molto orgoglioso di quello che fu suo padre, possono avergli ispirato il bene. C'erano motivi potentissimi: serbare immacolato il nome della famiglia, non smentire le qualità degne del favore popolare o perdere addirittura il prestigio di Palazzo Pemberley. Inoltre è dotato di orgoglio fraterno e questo, mescolato a un po' di affetto, fa di lui un sollecito e attento tutore di sua sorella. Lo sentirà sempre decantare come il migliore, il più premuroso dei fratelli. Che tipo di ragazza è questa signorina Darcy? Il giovane scosse la testa. Vorrei poterla definire simpatica, mi fa pena parlare male di un Darcy, ma somiglia troppo al fratello, è molto, molto orgogliosa. Da bambina era carina e affettuosa e mi voleva un gran bene, ho dedicato ore ed ore ai suoi svaghi, ma ormai non è più niente per me. È una bella figliola di 15 o 16 anni, molto istruita, a quanto sento dire. Dalla morte di suo padre è andata a stare a Londra, dove abita con una signora che si incarica della sua educazione. Dopo molte pause e molti tentativi di cambiare argomento, Elizabeth non poté a meno di ritornare sul primo dicendo: «Una cosa mi meraviglia, la sua intimità col signor Bingley. Come può il signor Bingley, che sembra la bontà fatta persona e che è, ne sono sicura, d'animo veramente nobile, essere amico di un uomo simile? Come possono andare d'accordo? Lo conosce lei, il signor Bingley? Per niente. È un uomo di un'indole piacevolissima, una persona gentile, affascinante. È impossibile che sappia chi è il signor Darcy. Forse non lo sa, ma il signor Darcy sa riuscire gradito se vuole. L'abilità non gli manca, sa essere un ottimo compagno di conversazione se gli sembra che ne valga la pena. Fra i suoi pari si mostra assai diverso che con i meno favoriti dalla sorte. L'orgoglio non lo abbandona mai. Ma coi ricchi sa essere largo di idee, obiettivo, sincero, coerente, stimabile e forse anche simpatico. Sono concessioni che fa alla ricchezza e all'apparenza. La partita di whist fu presto interrotta e i giocatori si raccolsero intorno all'altra tavola dove il signor Collins si accomodò fra sua cugina Elizabeth e la signora Phillips. Quest'ultima gli rivolse le solite domande circa le sue vincite al gioco. Non erano state granché dal momento che non aveva fatto che perdere, ma quando la signora Phillips cominciò a esprimere il suo rammarico in proposito, egli la rassicurò con la massima gravità che non vi attribuiva la minima importanza, dal momento che non teneva in nessun conto il denaro, e la pregava perciò di non crucciarsene. So perfettamente, signora, le disse, che quando uno si siede a un tavolo da gioco deve accettarne il rischio, e per mia fortuna le mie condizioni non sono tali che 5 scellini più o meno mi siano di peso. Indubbiamente ci sono molti che non potrebbero dire altrettanto, ma grazie a Lady Catherine de Bourgh io sono ben lontano dalla necessità di preoccuparmi per simili bagattelle. Queste parole attrassero l'attenzione del signor Wickham, che dopo aver osservato per alcuni istanti il signor Collins, domandò sottovoce ad Elizabeth se quel suo congiunto fosse molto intimamente legato alla famiglia dei Dubourg. Lady Catherine, rispose Elizabeth, gli ha concesso da poco un beneficio. Non saprei dire in che modo il signor Collins le sia stato presentato, ma è certo che non la conosce da molto tempo. Lei sa senza dubbio che Lady Catherine de Bourgh e Lady Anne Darcy erano sorelle e che perciò essa è la zia dell'attuale signor Darcy, vero? No, davvero non lo sapevo. Non avevo la più pallida idea della parentela di Lady Catherine. Sino ad avant'ieri ne ignoravo totalmente l'esistenza. Sua figlia, la signorina de Bourgh, erediterà un cospicuo patrimonio. Si crede anzi che lei e il suo cugino uniranno le loro due sostanze. Questa notizia fece sorridere Elizabeth, alla quale tornò in mente la povera signorina Bingley. Vane, infatti, dovevano riuscire tutte le sue premure, vani ed inutili il suo affetto per la sorella, gli elogi per lui se davvero egli si era già destinato ad un'altra. Il signor Collins, ella disse, parla con un gran rispetto di Lady de Bourgh quanto di sua figlia. Alcuni particolari da lui riferiti circa sua signoria mi hanno dato il sospetto che gli sia fuorviato dalla gratitudine e che, sebbene sua protettrice, ella sia una donna arrogante e altezzosa. Credo che possegga in sommo grado entrambe codeste qualità, ammise Wickham. Sono molti anni che non la vedo, ma mi rammento benissimo di non averla mai potuta soffrire per i suoi modi imperiosi e sprezzanti. Ha fama di essere notevolmente intelligente e assennata. Ma sono piuttosto incline a credere che le sue doti le derivino in parte dal suo alto lignaggio e dalla ricchezza, in parte dalla sua natura autoritaria e per il resto dalla superbia del nipote, che pretende che chi è imparentato con lui debba avere un'intelligenza di prim'ordine. Elizabeth convenne che gli aveva fatto un quadro assai realistico della situazione e insieme continuarono a conversare con reciproca soddisfazione, finché la cena mise fine alle partite a carte e concesse alle altre signore la loro parte delle premure del signor Wickham. Nel chiasso del festino offerto dalla signora Phillips era impossibile sostenere una conversazione vera e propria, ma bastavano i suoi modi a renderlo gradito a tutti. Qualunque cosa dicesse era detta bene, qualunque cosa facesse era fatta con garbo. Elisabetta andò via con l'animo pieno di lui. Per tutta la strada durante il ritorno non seppe pensare ad altro che al signor Wickham e a quanto egli le aveva detto. Ma non ebbe tempo neppure di nominarlo durante il percorso, poiché né Lydia né il signor Collins rimasero zitti un minuto. Lydia continuava a parlare dei biglietti della lotteria, delle fiche che aveva perduto e delle fiche che aveva guadagnato, e il signor Collins a elogiare la cortesia dei signori Phillips, a protestare che non dava la minima importanza alle sue perdite al whist, e a enumerar tutte le portate del pranzo. Pur sempre temendo di essere importuno con le cugine, aveva nondimeno più cose da dire di quante non seppe farcene entrare prima che la carrozza si fermasse alla casa di Longbourn. Capitolo 17. L'indomani Elizabeth riferì a Jane il suo colloquio con il signor Wickham. Jane ascoltò con stupore e non senza qualche apprensione. Non riusciva a convincersi che il signor Darcy potesse essere così indegno della stima del signor Bingley e non era tuttavia nella sua natura di mettere in dubbio la sincerità di un giovane dall'aria così da bene come Wickham. A far vibrare tutti i suoi delicati sentimenti bastava la possibilità che egli fosse stato vittima di tanta cattiveria, per cui non restava altro da fare che pensare bene di tutti e due, assumere le difese di ciascuno e attribuire ad errore o a disgrazia tutto quello che non poteva essere spiegato altrimenti. Tutti e due, mi pare, sono stati in qualche modo tratti in inganno, ella disse, come non ci è dato supporre. Può darsi che della gente interessata li abbia messi in cattiva luce l'uno agli occhi dell'altro. Comunque per noi è impossibile abbandonarci a congetture circa le cause e le circostanze che possono averli fuorviati, senza colpa vera e propria né da una parte né dall'altra. Verissimo, infatti. E ora, mia cara Jane, che hai da dire in difesa di quella gente interessata che era probabilmente coinvolta nella questione? Trovo una giustificazione anche per costoro, altrimenti saremo costretti a pensare male di qualcuno. Ridi quanto vuoi, ma non riderai mai abbastanza da farmi mutare opinione. Ma, Lizzie mia cara, considera soltanto in che cattiva luce pone il signor Darcy il trattare a quel modo il beniamino di suo padre, colui al quale suo padre aveva promesso di provvedere. Non è possibile. Nessuno che sia dotato di un minimo di umanità, nessuno che sia tenuto in qualche conto per il proprio carattere, ne sarebbe capace. È ammissibile che proprio i suoi amici più intimi vengano a tal segno delusi sul suo conto? No, no. Mi riesce molto più facile ammettere che il signor Bingley sia stato raggirato, che attribuire al signor Wickham l'invenzione di una storia come quella che mi ha raccontato ieri sera, nomi, fatti, tutto è stato citato senza reticenze. Se non è vero, sì, signor Darcy, a provare il contrario. Aveva un'aria così sincera il signor Wickham. È proprio una faccenda molto difficile. È desolante. Non si sa che pensare. Scusami, ma si sa benissimo che cosa pensare. Jane, però, sapeva pensare con certezza a una sola cosa: che se signor Bingley era stato davvero raggirato, avrebbe avuto molto da soffrire quando la cosa fosse divenuta pubblica. Le due fanciulle vennero richiamate dal boschetto, dove aveva avuto luogo questa conversazione, proprio dall'arrivo di alcune delle persone di cui stavano parlando. Il signor Bingley veniva con le sorelle per invitarle personalmente al ballo di Netherfield, così lungamente atteso e fissato per il prossimo martedì. Le due signore si mostrarono lietissime di rivedere la loro cara amica, dissero che era un secolo che non si erano più vedute, e le domandarono ripetutamente che cosa avesse fatto di bello dopo la sua separazione. Del resto della famiglia si occuparono poco, evitarono il più possibile la signora Bennet, parlarono poco ad Elizabeth e nulla affatto agli altri di casa. Alzandosi da sedere con tale sveltezza che il fratello fu preso alla sprovvista, essi si allontanarono in fretta, dando a divedere una grande voglia di sottrarsi ai convenevoli della signora Bennet. La prospettiva di un ballo a Netherfield riusciva estremamente gradita ad ogni membro femminile della famiglia. La signora Bennet volle vederci un omaggio tributato alla maggiore delle sue figliole e fu particolarmente lusingata nel ricevere l'invito dal signor Bingley in persona, anziché da un cerimonioso biglietto. Jane si riprometteva una serata piacevole in compagnia delle sue due amiche, fra le attenzioni del loro fratello, ed Elizabeth pensò con piacere di danzare molto col signor Wickham, pronta a spiare la conferma di ciò che aveva appreso nello sguardo e nel comportamento del signor Darcy. Quanto a Catherine e a Lydia, la loro felicità dipendeva meno da una speciale circostanza o da una determinata persona, poiché sebbene ciascuna di esse, come Elizabeth, intendesse ballare metà della sera col signor Wickham, egli non era affatto l'unico cavaliere che potesse soddisfarle. E dopo tutto, un ballo era un ballo. Persino Mary poté assicurare alla famiglia che non ne provava alcuna avversione. Finché posso avere per me le mattine, disse, mi basta. Non ritengo un sacrificio partecipare a qualunque trattenimento serale. La società esige qualcosa da ciascuno di noi e io professo di appartenere alla categoria di coloro che considerano gli intervalli di svago e di divertimento desiderabili per tutti. Elizabeth si sentiva così di buon umore in quell'occasione che, sebbene rivolgesse raramente la parola al signor Collins senza necessità, non poteva fare a meno di domandargli se intendesse accettare l'invito del signor Bingley e, in caso positivo, se riteneva opportuno partecipare al trattenimento serale. E fu alquanto stupita di scoprire che egli non si faceva in materia nessunissimo scrupolo, ben lontano dal temere un rimprovero dall'arcivescovo o da Lady Catherine de Bourgh, se si fosse avventurato a ballare. Non sono affatto del parere, e gli spiegò che un ballo di questo genere, dato da un giovane a modo, a gente rispettabile, possa avere alcuna tendenza al male. E sono io stesso così lontano dal criticare la danza che spero di avere l'onore della mano di tutte le mie graziose cugine nel corso della serata. Colgo anzi l'occasione per sollecitare il suo consenso, signorina Elizabeth, per i primi due balli in modo speciale, confidando che mia cugina Jane vorrà attribuire tale preferenza al giusto motivo. Non ha una mancanza di riguardo per lei. Elizabeth si sentì completamente presa in trappola. Si era proposta di impegnarsi col signor Wickham appunto per quei due balli e doversi invece sorbire il signor Collins. Mai la sua impulsività era stata più intempestiva. Non c'era scampo, tuttavia. La felicità del signor Wickham e la sua propria venivano per forza differite di un poco, ed ella accettò l'offerta del signor Collins con tutta la buona grazia di cui fu capace. Né si sentì maggiormente lusingato dalla galanteria del cugino all'idea che potesse significare qualche cosa di più. Fu allora, per la prima volta, che si rese conto di essere lei la prescelta fra le sorelle, come degna di diventare la signora della parrocchia di Hansford. Quella che avrebbe aiutato a formare la tavola di Cadriglia a Rosings, in mancanza di ospiti più desiderabili. Il sospetto non tardò a diventare convinzione, constatando le crescenti cortesie che egli le usava, udendone i frequenti tentativi di complimentarla per la sua intelligenza, per la sua vivacità. E benché fosse più sbalordita che compiaciuta per l'effetto prodotto dalle sue grazie, non andò molto che sua madre le diede a comprendere che la possibilità di un loro matrimonio era per lei estremamente gradita. Elizabeth però preferì non raccogliere l'allusione, consapevole com'era che qualsiasi sua risposta avrebbe avuto come conseguenza una grave discussione. Poteva darsi che il signor Collins non facesse mai la sua proposta e fino a quel momento era inutile litigare per lui. Non ci fosse stato quel ballo a Netherfield da preparare e di cui discorrere, le minori delle signorine Bennet sarebbero state frattanto in condizioni di spirito deplorevoli, giacché dal giorno dell'invito al giorno del ballo la pioggia fu così incessante da impedir loro di recarsi a Meryton anche una volta sola. Non c'erano né zie, né ufficiali, né notizie di cui andare in cerca. Persino le fibbe delle scarpette di ballo furono acquistate per procura. Anche Elizabeth dovette forse mettere alla prova la sua pazienza con quel tempaccio che sospese qualunque progresso della sua conoscenza col signor Wickham. Per Catherine e Lydia, poi, soltanto la prospettiva di un ballo al martedì poteva rendere sopportabili un venerdì, un sabato, una domenica e un lunedì come quelli. Capitolo 18. Finché Elizabeth non fu entrata nella sala di Netherfield e non ebbe cercato invano il signor Wickham nel gruppo delle giubbe rosse che vi erano riunite, mai un dubbio circa la sua presenza le aveva attraversato la mente. La certezza che lo avrebbe incontrato non era stata diminuita da alcuno di quei ricordi che avrebbero potuto non senza ragione metterla in allarme. Si era vestita con cura maggiore del solito e si era preparata con la migliore disposizione di spirito alla conquista di tutto ciò che del cuore di lui ancora non era stato soggiogato, fidando che non si trattasse di più di quanto poteva essere vinto nel corso di una serata. Ma bastò un istante perché le si destasse il sospetto che gli era stato omesso di proposito dall'invito dei Bingley agli ufficiali per fare cosa gradita al signor Darcy. E sebbene le cose non stessero proprio così, il fatto positivo dell'assenza di Wickham fu annunziato dal suo amico, il signor Danny, sollecitamente interpellato da Lydia, il quale disse loro che il giorno prima egli era stato costretto a recarsi in città per affari e non era ancora tornato, aggiungendo con un sorriso pieno di significato: «Non credo che i suoi affari l'avrebbero chiamato lontano proprio ora, se egli non avesse desiderato evitare un certo signore qui presente». Questa parte della sua comunicazione, benché non udita da Lydia, fu colta invece da Elizabeth e poiché veniva a confermarle che Darcy non era meno responsabile dell'assenza di Wickham, che se la sua prima supposizione fosse stata esatta, tutti i sentimenti di antipatia verso il primo furono così acuiti dal dispetto provato sul momento che a stento le riuscì di rispondere con passabile urbanità alle cortesi domande che egli si apprestò per farle subito dopo. Gentilezza, tolleranza, pazienza verso Darcy erano un insulto recato a Wickham. Era risoluta a non sostenere con lui conversazione di sorta e se ne allontanò di così cattivo umore che non riuscì a superarsi completamente neppure parlando col signor Bingley, irritato dalla cieca parzialità di lui. Ma Elizabeth non era nata per il cattivo umore e sebbene ogni suo piano per la serata fosse ormai sfumato, il disappunto non poteva a lungo influire su di lei. Dopo aver confidato tutti i suoi dispiaceri a Charlotte Lucas, che non vedeva da una settimana, poté presto passare volontariamente a discorrere delle stranezze del cugino, segnalandolo alla particolare attenzione dell'amica. I due primi balli, tuttavia, la riemersero nella sua angustia. Furono due balli di umiliazione. Il signor Collins, goffo e solenne, pieno di scuse, anziché di attenzioni, e muovendosi spesso in modo errato senza rendersene conto, destò in lei tutto quel senso di vergogna e di deplorazione che può infondere un ballerino antipatico per la durata di due giri di danza. Il momento del distacco da lui fu un momento di estasi.